Avanti il Bitti, chi è? Buonasera. Avanti il Bitti, ho detto. Non è voi a parlare. Vabbè, pazienza. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Avanti il fischietto. Avanti il fischio. Buonasera Giulio! Buonasera, non ti ho riconosciuto! Eugenio Boa Torres. Ah, ciao Luigi! E beh, come va? Tutto a posto! Per noi è tutto a posto! È meglio così, dai! Meglio così oggi! Mi senti bene o cambio il microfono? No, no, va bene! Va benissimo! Ah, è ok, allora tengo questo, dai! Non c'è problema, sto usando quello manuale da palmo, perché ha la prolunga e dunque è molto lungo e mi viene bene. E vabbè, comunque, è Natale, si avvicina oggi. Ma un giorno come un altro. Beh sì, tutto considerato è un giorno come un altro, è vero, non hai tutti i torti, in effetti è così, perlomeno noi che abbiamo già vissuto un bel po' di anni, grazie a Dio, già lo conosciamo bene, è il Natale. Poi sto anche lavorando io, per il Natale sto lavorando. Stai lavorando, in questo momento stai ancora lavorando? Eh beh, certo, il giorno di Natale mi tocca dentro. Ah, ok, ma allora sei col portatile o in macchina, sì? No, ragazzi, va a casa. Non ho più in macchina, non ce l'ho più. Ah, ho capito, e vabbè, allora, ancora allora non hai ripreso servizio, dai. Allora, magari in notturna devi lavorare oggi. No, tra un po' devo scendere. Che ore sono a proposito? Sono le 5 e 13 minuti. E allora tra qualche minuto devo andare via. Devo andare via tra qualche minuto perché inizio alle 18, capito? Ok, ho capito. Vabbè, già sei vicino, dunque, anche se esci 10 minuti prima dell'orario del lavoro, già fai sempre in tempo. No, devo essere sempre mezz'ora prima al lavoro, capito? Sempre mezz'ora prima. Ah, ho capito. In caso di imprevisti, di orari, eccetera, mezz'ora prima devi essere lì. E vabbè, il lavoro bisogna rispettarlo, ci mancherebbe altro. La frequenza è che non bisogna più rispettare, tanto non c'è più nessuno, con chi te la prende? Col muro. È vero, non c'è più nessuno, io intanto l'accendo, ma non c'è più nessuno. Perché mi piace tenerlo qua il apparato, se no non lo sarei venduto. Non c'è più nessuno. Anche quello è vero, ti piace tenerlo, anche perché non ti servono i soldi dell'apparato, cosa te ne frega. Però il fatto anche qua, a chi lo vendi, qui perlomeno non è possibile, dovresti fare un pacchetto e spedirlo, se no non potresti nemmeno vendere. E chi lo compra se dal momento che non c'è più nessuno? Non era proprio la mia idea venderlo, però se, vabbè, fare un pacchetto non mi costa niente. Non c'è più nessuno qua, strano, vabbè, io ti ripeto, non coincidono i tempi, gli orari in cui durate voi, io sto lavorando, poi come rientro verso le 8:30, 9, 9:15, non c'è più nessuno. No, non c'è più nessuno, in qualsiasi ora che tu accendi è sempre buio completo, non c'è più nessuno in frequenza. Purtroppo è così, la gente ha voluto che la frequenza morisse definitivamente, evidentemente non ha più la passione o il tempo o la voglia di modulare, non lo so. Vabbè, ma io aspetto, perché la voglia, noi ci voglia chissà cosa schiacciare il pulsante. Vabbè, quello no, non per il fatto del pulsante, il fatto di parlare, evidentemente non è più interessata la gente al baracchino, per cui va bene lo stesso, non c'è problema. Beati loro che ancora ci sono, il continente ce ne sono tanti, propagazione ce n'è tutti i giorni, ma sono tutti stranieri. Io li sento sempre, tutti i anche poc'anzi, c'era uno che metteva un bip, l'ho invitato ad entrare ma non ha risposto. Ma anche stamattina, io ce l'ho acceso da stamattina, questa mattina c'era un sacco di propagazione. Vabbè, mi che sta già lì. No, non si sente più nessuno, vabbè, riaffioriranno. Io ho la sensazione che la gente non rientri più, perché è una questione di anni ormai, non è solamente da oggi. Sì, adesso magari da un paio di mesi, due o tre mesi a questa parte proprio è completamente chiusa la frequenza, però diciamo che c'era già il sintomo da alcuni anni, da almeno due o tre anni c'era già il sintomo che la 27 perlomeno a Sassari moriva definitivamente. Mi dispiace perché, vabbè, per l'altro è che è morto il canale Luigi. Adesso se vuoi chiudere il canale Luigi, cioè, peccato. Avanti, c'è qualcuno che mi chiama forse, ho capito bene. Ehi, Giulio, non è detto. Avanti, chi è? Giulio. Ehi, Daniele, tu sì. Santiago 8, Radio 5. Come prima, no, è come prima, più o meno come prima. Ti mando Eugenio da Porto Torres, forse ti interessa un controllo anche da parte sua. Vai Eugenio per Daniele ai tiri. Zero, niente, non riesco a sentirlo. Non riesci a sentirlo? Vabbè, non so cosa dirti. Non so cosa dirti, ha montato l'antenna come la tua e come la mia, Eugenio. Strano che tu non riesca a sentirlo, ma evidentemente non combinano le posizioni. Avanti, Daniele, l'hai sentito tu a Eugenio da Porto Torres? Cosa hai detto, Daniele? Non ho capito bene, è troppo QRM. Ma cosa hai fatto? L'hai abbassata? Ho capito, ma risposta era come ti ho detto, mettici quel pezzo di tubo da elettricista come ti ho detto, fra il primo e il secondo elemento, e vedrai che anche se piega moltissimo come la canna da pesca non fa niente. Io lo stesso, qua non credere che il vento ne prenda meno di quanto ne puoi prendere tu, perché io sono davanti al mare, io dal terrazzo di casa mia vedo il mare, dunque è tutto aperto, anche perché le case qui sono tutte della stessa altezza, non è che ci sono abitazioni più alte o più basse, no, sono per legge tutti della stessa altezza. Vabbè, ripasso a Eugenio, avanti Eugenio. Ora lui non so se mi sente, ciao Daniele. Buonasera, mi hai sentito per la prima volta? No, non lo so se mi sente. Mi sente giù, non lo so. Ma ha detto che non ti sentiva nemmeno a te. Confermi, Daniele, che non lo senti a Eugenio? Chi è quello che fa ola? Avanti, quello che fa ola, chi è? C'è propagazione, lo so. C'è propagazione. Cosa stai usando, Daniele? Il 140 sta usando o qualche altro apparecchio? Chi è quello che fa o avanti? Chi è avanti quello che si sente male? Ma chi è? Tu sei Daniele? No, Giulio, appunto, è quello che sto dicendo. c'è uno che si sente male evidentemente e sta chiedendo aiuto, non lo so. Va bene, dai, avanti Eugenio. Stavo dicendo, ma lui non mi sente? No, non ti sente, ha detto che non ti sente. Confermi Daniele che non senti Eugenio? Ho capito, ha detto che non arrivi là Eugenio, ha abbassato l'antenna, lui ha l'antenna, guarda la nostra, la Game Master, no? E l'ha abbassata per paura del vento, Eugenio. No, ma quando mai? Intanto il vento, guarda un po' se mi sente adesso, che è aumentato un po'. Daniele, mi ascolti? Attenzione, Daniele. Daniele, l'hai sentito adesso Eugenio che è aumentato un pochino? Io sono a 8, vabbè, più o meno siamo lo stesso segnale con te, anche con Eugenio, più o meno è lo stesso segnale. Ma adesso è aumentato un pochino lui e tu non sei riuscito nemmeno a sentirlo perché hai detto che c'è troppo QRM, confermi? Va bene, vai a aprire la porta, vai. Avanti Eugenio, gli hanno suonato il campanello. No, non mi sento là. Eppure ho aumentato, vediamo un po'. Sto andando c'è che ho fatto. È possibile, sì. Vabbè. Siamo sui 100. Lasciamolo rientrare, adesso che è andato a 100. Lasciamolo rientrare perché è andato a aprire la porta, gli hanno suonato il campanello di casa. Ma ti dovrebbe sentire, con 100 watt a voi già ti dovrebbe sentire, a Itteri, non è che è così lontano, no? Da Porto Torres a Itteri cosa possono essere? 30 km. Ma evidentemente non coincido le antenne. Vabbè, lui ha l'antenna bassa, così. Sì, lui ha detto così, ha abbassato l'antenna perché aveva paura del vento in questi giorni, per cui magari ha poca ricezione. No, cosa fa? Io gioco a faccia a mare, eppure non gli ha fatto niente. E appunto è quello che gli ho detto io anche l'altro giorno, perché l'altro giorno ho visto e considerato che lui mi aveva chiesto un'impressione sul fatto di questa antenna qua, io gli ho detto per me va bene, a me piace, per cui se a qualcuno non piace non so cosa dirti, però non ce l'ho solo io e gli ho anche citato il tuo nome, guarda che ce l'ha Eugenio a Porto Torres il vento tira forte, non è, lasciamo a me, dice che io sono qua, può darsi che sia, non sia così tanto forte, ma a Porto Torres il vento fischia, è come fischia, c'è il mare lì. E per cui lui l'ha piazzata ma ha avuto paura adesso di tenerla alta. No, non le fa niente, non le fa assolutamente niente. Attento Daniele, Itti. No, forse non sta riprendendo. Daniele, ci sei? Vabbè, quando vuoi tu fammi uno squillo e ci prendiamo l'appuntamento e facciamo le varie prove, Daniele, se ti serve. Comunque mi confermi ancora una volta che a Eugenio con 100 watt non sei riuscito ad ascoltarlo ugualmente, strano però, eh. Ok, ho capito Daniele. Io potrei anche migliorare la radio cambiando il microfono, perché sto usando il microfono suo originale, quello palmare, ma potrei mettere l'MB4 che sarebbe sicuramente un po' più forte e soprattutto più chiara la modulazione. Va bene, d'accordo Daniele, quando credi fammi uno squillo e prendiamo appuntamento e così facciamo le varie prove, ok? Ciao, ti saluto anche da parte di Eugenio, visto che non riesci ad ascoltarlo. Avanti Eugenio. Ciao Daniele, ci sentiamo, sperando presto, vai, sollevati l'antenna, che non le fa niente. Ok, ciao. Ok. Daniele, se stai ancora ascoltando, anche Eugenio ha detto solleva l'antenna che non le fa niente il vento, che anche lui, ripeto, ce l'ha uguale alla nostra e piega moltissimo, come pescare al mare, perché è una canna da pesca in pratica, però si piega ma non si rompe. Fai comunque, se tu hai paura, fai quel lavoro che ti ho detto e vedrai che tiene e come tiene. Io ce l'ho roba di 5-6 anni, per cui va sempre bene. Avanti, Eugenio. Io lo stesso ce l'ho adesso un paio di anni e niente. Io posso aumentare così, abbasso un po', lo metto come il cursore, ok, più o meno ci siamo. Così va meglio, così ti sento meglio, perché c'è molto QRM oggi, è per quello che non si sente, Daniele, perché di segnale probabilmente si sente, però se essendoci molto QRM la radio magari è bassa, allora sarà per quello. Ecco qual è il problema oggi. Io ti sento bene, la verità, mi sei arrivato anche oltre 9 poco fa, quasi 9-10, per cui la radio era bellissima, no, non c'è problema. Adesso il segnale comunque abbassato. Sì, adesso sei 7,5. Adesso sei 7,5, ma poc'anzi eri 9, quasi 9,10. Per cui c'era molta differenza. Prima erano 100. Adesso cosa puoi avvenire? 30, 20, 30. No, adesso sto uscendo con 10 watt. Però la prima volta che ho aumentato il segnale. Sì, beh certo che sì, anche con piccola potenza arriva dappertutto, perlomeno per quanto ne so io, tutti quanti ti hanno sempre risposto e hai parlato con tutti, per cui, ma evidentemente oggi è una giornata un po' particolare perché c'è propagazione, allo stesso tempo c'è molto QRM ed ecco la ragione per cui lui non riesce a sentirsi in radio, magari di segnale arrivi, però viene coperto dal segnale della propagazione, sicuramente è così oggi, se no a Porto Torre con 100 watt ci arrivi tranquillamente. Ok, ciao Gigi, grazie a te per la chiacchierata, dai, buon lavoro, se non ci sentiamo prima, buon Natale, dai, evidentemente, se poi hai voglia di chiacchierare, quando ti pare ti piace, io tempo ne ho tanto, fai uno squillo e così ci diamo appuntamento e entriamo in frequenza, ciao ancora Gigi, saluti in casa, ciao. Ciao, ciao Gigi, grazie, ciao, ciao. Atte tu Lillo, butta la pasta. Lillo, butta la pasta. Sul 10 c'è qualcuno? Attenzione sul 10. Hola. Hola. Tanto. Avanti. Ho girato che dici, ho sentito il piccolo. Scappa, dai. Lascia vedere. Aspetta. Ma tutto a posto. Buonasera, buonasera. K, mi sono trovato qua in sala adesso. Mo' che fai, Raul, il biaero? Oh, dicevo, c'erano anche... Sono andati a prendere Manuela, mio cognato, Marco, c'erano tutti a Urbia. Sono andati all'aeroporto e poi sono stati lì a mangiare. Oh, K. Hola, hola, hola. Vuoi vedere? No, io sono andato a casa di mia sorella, sono andato. Se lo sapevo c'erano visti già. Dovevo andarci anche io, ma so che dolore là, accanto non posso stare. Ieri notte ho fatto io le piccole a giubile a domenica. Cappa. Ma ce la facevi a guidare poi? Sì, insomma, ha guidato un'altra persona. Cappa. Vabbè, non lo sapevo, ga. Comunque già ce la faccio, non è che non ce la faccio, allora. È che mi vengono i dolori furti, capito? Lo so. Io mi stanco parecchio guidando. Fare viaggi lunghi, forse perché non sono abituato. L'altro giorno ho fatto un bel po' di chilometri, mi ha stancato molto. Ti sei abbassato di radio di brutto. Hola, vuoi vedere? Hola. Vanno gli idrati, che cose. Adesso sei uscito. Ma cosa stai usando? Che microfono stai usando? Su, quello del Cobra. Ma quando non li usi fa così, fa. Fa un po' di dito, fa, capito? Quello lo devi aprire e metterli uno spray per contatti nel PTT e non ti rubare di più. Ma non ho visto che trattava questa apparecchiatura. Oh, yeah. Ma il miracolo sta uscendo. Ma questo è il Cobra. Cosa? Questo è il Cobra. Questo è il Cobra. Esce bene di radio, sta uscendo bene di radio. Vabbè, è tutto da controllare, quel microfono è aperto e messo lo spray per contatti, del PCT. Vedrai che non ti ruba di più. Prima vuole soffiato con l'aria per togliere la polvere che c'ha e poi ho messo lo spray. Ora. Aspetta, vedi, non si è avvitato bene questo. Ora. Io non ho avuto senza usare. Ma non deve fare, io lo stesso sono da morte e non me lo fa, come vai? Dipende sempre dalla polvere che entra, amico, se entra polvere magari si mette nei contatti e non ti fa fare bene il contatto. Lo so. Ha guidato, tua figlia ha guidato. No, ma te l'ho detto ieri che dovevo fare, altro ieri notte, ma è minchiato. Già non so, ma non so chi è, tu mi hai detto ha guidato un'altra persona. Non so qua a dirlo chi è, capito? Se te lo dico da un'altra parte. Capio? E già ne parliamo, dai. No, mia figlia non era arrivata ieri, non è arrivata oggi. sono andato io già a prenderla con mio cognato, la mia ex moglie, il mio ex cognato, Marco. Sono andati tutti quanti all'aeroporto, l'hanno invitato anche a me a andare, ma io non ero in vena di fare i viaggi lunghi, perché sono con questo dolore e non posso stare. Lo so. 100 km sono, li ho fatti tutti oggi. E poi 120 da casa? 200 ne ho fatto oggi, andato e ritorno. 30 euro di benzina li ho consumati, anche di più. Io praticamente metto il gas, 30 euro di gas, vado, ritorno, la tiro la macchina, vado, ritorno, me ne avanza pure. Sì, prova a darmi questa macchina, se ti va a fare 30 euro. Ma tu, io l'ho tirata anche a 190 con la macchina, a gas, però una volta solo, dico la verità, per vedere se tirava bene a gas. Poi ho mollato, non l'ho più toccato. Questo l'ha fatto il filmato Marco mentre sul contachilometri mentre stavo camminando. Mi andava anche di più. Ma non l'ho voluto tirare io di più. Volevo vedere solo se spingeva. E spinge o me a gas lo stesso. Anzi, poi se spinge più a gas che a benzina si diminuisce. Ma una volta solo l'ho fatto, solo per provarla quando ce l'avevo da poco. L'ho voluta provare a vedere. L'ho provato, sono stata di Alghero lì, nelle quattro corsie. La sala attenti lì, la sala attenti. Vabbè. Cazzo, troppi limiti ci sono, troppi. Ma guarda che sono prudente, no? Io vado sempre al limite giusto. Solo che lì l'ho voluta provare e basta. Vabbè, potevo anche andarmi male. Hai ragione anche tu, però... Siccome era andata, non ce n'era di pulizia né niente, quindi mi sono fidato al ritorno. Scappa, già li fa bene ogni tanto tirarla. Io quella lì l'ho tirata al massimo, sono arrivato quasi a 170. Allora il motore è buono, dai. Se va con la velocità il motore è buono. Buono sì, però quando prendo un po' di salitina se ne scende, la verità. Se ne scende perché è purtroppo è piccolo come motore, però sui 100 già si rifà in salita. E se ne scende, basta scalare la marcia e scali e prendi il giro. Appa, già cammina, già. Solo io che non voglio andare troppo forte, però l'altro giorno l'ho fatta sbizzarrire. L'ho tirata un bel, l'ho tirata. Sì, ma il motore c'è sui anni, mi sa tutto quello che non ci si infondia. No, le quasi nulla. Vabbè. Mi chiama mai quella lì? Del 2001, c'ha 53.000 km. Quella che ho preso è del 2010. Ma va che vanno bene, vanno benissimo, vanno qua. Se si dà deniva e ridura una vita, chissà. Ma già la tiene bene, vedrai, gliela vedo io, le raccomandazioni pure, lo dico io come deve fare. Quella lì è nuova, mi ha detto, se te la vuoi sapere è perfetta. C'è dentro che fumi, non c'è nemmeno ammaccature, nulla. Ma che sono così, se sono tenute bene ti durano sempre. Non ti danno mai un fastidio, non ti danno. Madonna! Aspetta che vado a cambiare la Capri che si è cagato. E chi è? Ciambarismo da dentro. Pi. Ciucucciu. Oh già mio. Via. Eccomi qua. Ho cambiato la Capri. E non hai sentito che ti stavo cantando Ciambarismo da dentro? No, un banolino da Giamba. Che parolino mutandia sarà, no? Ma ci vende il telefono. Cosa tu? Io stavo dicendo, se va bene quella, me la metto, quando arriva un po' di soldi, me la metto un po' a posto in carrozzeria e mi tengo quella, non ne compro macchina. Vabbè, se non c'ha chilometri con la macchina, si suppone che se sono originali quei chilometri che c'ha, sono pure. Beh, se non fossero stati originali non avrei passato la revisione. Ma era in uso la macchina, eh? Adesso è così. se non c'è il chilometro giusto la macchina non ti passa la revisione, lo sai, legge. Riescono ad arrivare i chilometri che c'è originale. Sì, sì, sono i chilometri originali della macchina, poi conosco anche le persone che l'hanno tenuta, quindi è impossibile che sia truffata, perché tu adesso se truffi una macchina, tu come vai a fare la revisione? Dicono caro signor Tizio, lì mi hanno messo la macchina e la revisione non ti passa, automaticamente non ti passa. Piazza, attentimi con queste cose. Poi se te ne vedi una che mi hanno messa, nel senso di chilometraggio, tu cosa ne sai? Scusa, non puoi saperlo se l'hanno toccato o no. Poi la revisione non te la passa a te, così è. No, non è così già. Adesso c'è una legge nuova, c'è. Quando tu la macchina revisionata l'hai da poco e prova a guardare se ci sono i chilometri nel libretto e se la porti tu, io la mia moto, quando ho portato la mia moto ho dovuto firmare un foglio con la dichiarazione, cioè mi se trovo la foto che c'è un altro cellulare, non te l'abbia mandata, con la dichiarazione che il mezzo c'ha quei chilometri. Se no sono cazzi d'uso, non è così no adesso. Tu quando c'è la macchina, la prima revisione fatta perché dura 2 anni, e prova del libretto a vedere. Devi firmare una dichiarazione, devi firmare, o chi te la fa per te. Devi firmare una dichiarazione che la macchina è a quei chilometri reali. Poi dal computer adesso, se ne accorgono subito. E se no sono cazzi d'uso, asciughe. Io ho fatto 2 revisioni, ma quella che ho comprato era già la revisione test di scadere nel 2026, quindi come la mia mi scade nel 2026 perché l'ho fatta, devono passare 2 anni, dai. E guardo dietro il libretto a vedere, se te l'hanno in bocce, puzzinosi, o sulla dichiarazione, avesse degli hanno messo i chilometri. Ma no, sai che non ci ho mai fatto caso. E prova a guardare, informati a vedere. Non vai, no, macchini, no. E prova, se la macchina è stata truccata non ti sarebbe passata la revisione, perché allora li risulta. Gli esce tutto, li esce. Macchina, modello, dalla targa, li esci tutto canto. Si è avuto sinistri, la macchina, tutto, cioè. Se lo vuoi sapere, Emi, c'è un'applicazione, c'è, e ti dice tutto. Cioè, ti dice vita e miracoli del mezzo che stai comprando. E loro, se tu la macchina non va di chilometri giusti, non va bene, non te ne passano revisione. Mi fa avere 600 palle a vedere. Io quando ho portato la moto mia, ho dovuto firmare un foglio, non è così, no? Dichiarando che i chilometri della moto sono quelli. Vabbè, tu puoi dichiarare sempre il falso comunque, puoi dire di sì e poi magari non erano quelli, ma comunque, questo anche che ho preso io per mano era che la revisione era fatta, quindi non ha problemi, c'è tutto a posto, tutto in regola. Non è così già, riesce automaticamente a loro, riesce. La revisione non ne fai, tranquillo, tu puoi dire, no, tu non puoi dire nulla, riesce dal terminale, riesce tutto, la parola tua non vale niente. Aspetta che c'è il portapizza nella porta, un attimo. Oh Gianni, dimmi. Sono arrivate le pizze, là. Ce la sentiamo dopo. Capito hai? Adesso si collegano col terminale della motorizzazione civile e cosa. È tutto collegato mi. E da lì non scappi più adesso, no? Lo sanno tutto, sanno. Per fare una revisione, capito? Tu non gli puoi dire il falso mai. Perché loro lo sanno. Ok. Ma detto questo vado a mangiare, che è arrivata la pizza. Gabri! Ciao, buona serata e buon appetito. Un bacione a Gabri, ciao.